Stavamo parlando di AI e da lì c'è scappato di parlare di IBM. IBM una volta ha Siamo in fatto un AI. diretta. Sì. Forse dovremmo dire Buonasera, buonasera. buonasera, buonasera, ma tanto non, siamo in diretta in maniera Buonasera, siamo inaspettata. in diretta in maniera inaspettata e siamo qui in nome della trasmissione. Bitume, bitume, Bitume. sempre bitume, solo bitume. Quindi sì, stavamo parlando di IBM. IBM è stata, Perché andiamo a stavamo memoria, perché parlando di IBM? stavamo parlando delle grosse entità inamovibili che governano la rete e le nostre esistenze. Siamo partiti dal bollo della macchina, da lì siamo passati alle AI che adesso verranno messe dentro Windows 12 e, sospirone, una macchina a quanto pare è in giro per l'Italia, governata da un'AI dopo aver partecipato alle mille miglia e sta continuando a percorrere le strade in modo che serva da test per le future macchine. E E poi cos'altro? quindi Ah, IBM. l'Unione Europea ha fatto una legge che l'ha chiamata la legge sulla AI. E dunque si fa un gran parlare di AI. Di intelligenza Ma non di artificiale. IBM. Non di IBM, Notavamo noi, non sì, si parla esatto. molto di Di IBM. IBM che appunto aveva una sua intelligenza artificiale, tuttora Watson, elementare Watson. Ed esiste ancora Watson? Secondo me sì, forse dovremmo controllare. Allora, mentre noi controlliamo, vi mettiamo una musichetta, sì. Vediamo, sì, dai. My life be like, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, low-key and staying candid, reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones, a closet bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat, catch a second wind thin if the air I breathe. Teary-eyed nose running, wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in life's speed. Losing the feelings of what you thought love was, like the dirt still up under the rug. My life be like bad characteristics covered in Christ's blood. The joy of new birth and the pain of growing up. The bliss between giving my all and giving up. The highs and lows, paths and roads I chose. In the cold I froze, trying to ease my woes in this world of sin. Clothes too thin to fit, so the God I send. Words of help to win, and grumbling so deep letters can never express. So the sounds of ooh ah beneath my breath. My life be like. Abbiamo un aggiornamento. Aggiornamento, torniamo in studio, abbassiamo un attimo la musica, ecco, siamo in onda, ecco, abbiamo un aggiornamento. Dan, poi sei in collegamento? Siamo in collegamento. Pronto, mi sentite? Ecco, Mi sentite? Dan, sì, ti sentiamo, Ciao. siamo in collegamento con Dan che è nella zona Mi vedete? sì, ti vediamo. Io non vi Ti sento, vi sentite? vediamo, ti, sen ti sentiamo, tu ci Ecco, adesso senti? vi sento. Te bene, Ciao. perfetto. Resta dove sei, fermo, fermo, Sì. anche se è un po' scomodo lì. Esatto, perfetto, così. Muovi la mano. Sì, ecco, sì, ti vediamo, perfetto, perfetto. E quindi, ecco, dici dove ci sei, dove sei. No, beh, volevamo dare un aggiornamento. Volevamo dare un aggiornamento. Purtroppo un triste aggiornamento e non c'è molto da ridere perché sono morte delle persone. Esatto. Però purtroppo appunto il... come un po' si sospettava. No, ecco, la cosa interessante di tutta questa storia. Allora, il sottomarino purtroppo it turns out that è imploso. A quanto pare è imploso mentre stava scendendo e non deve essere stata una bella morte. Se non altro è stata sicuramente veloce, perché insomma se... più veloce che la morte da asfissia. E perché non ci hanno fatto sapere subito che era imploso, invece si diceva questo sono interessante sotto, se uno pelle. Volesse fare della dietrologia. Allora, in realtà è perché è disorganizzazione di questa ditta, di questa che società, la Logitech. Non era la Logitech. Sicuramente problemi con il joypad, cioè ora quindi fai quello che vuoi, ma quello non era o forse il joypad invece era l'unica cosa che funzionava forse bene. Funzionava bene, non lo so. Comunque, a quanto pare c'è stato il problema, da quella che un po' in realtà me la sono studiata. Il problema è che questo tipo di sommergibili, insomma, di mezzi che vanno a queste profondità, in teoria dovrebbero essere costruiti in acciaio in forma sferica, e invece questo qui che ha fatto, ha preso della fibra di carbonio. E praticamente è come usare del nastro adesivo, fondamentalmente, perché poi dopo un po' più la usi, la fibra di carbonio è molto rigida in realtà, e si creano delle crepe, e questa forza di andare su e giù, alla fine la crepa più grossa te la ritrovi e ti si schianta come si dice, la navicella, l'abitacolo. L'abitacolo, esatto. E niente, sì, che appunto brutta notizia e tutto quanto. E appunto, però, una cosa che notavo, che appunto, che a un certo punto se n'è uscita la Marina Militare Americana dicendo: eh no, noi l'avevamo sentito di colpi. Avevamo sentito il botto già a quell'ora precisa in cui stava discendendo, pochi minuti dopo. E non erano le orche con le pentole. No, come no, dice, esatto. Come ma dice no, internet. La cosa che diceva è che noi l'abbiamo sentito, ma non l'abbiamo detto. Non ho capito se non l'hanno detto lì per lì, o forse l'hanno detto, ma insomma, questa cosa è irrilevante. Ma è il come l'hanno percepito. È venuto fuori che l'America c'ha una rete di microfoni sparsa per tutti i mari, a quanto pare, sott'acqua. Non lo so, sott'acqua, che gli permette di capire se succede qualcosa e non so, intervenire, mandare insomma Superman. O Batman, non lo so chi, le povere persone che stavano giù non l'hanno scampata, purtroppo hanno già hanno trovato dei pezzi della cosa, ma non penso che troveranno, non lo so, insomma, ecco, penso che gli squali abbiano fatto il resto, insomma, ecco. E la barca tornò sola Yamiga man on board. Erano tre fratelli pescatori, con una mamma nera ed una barca bianca, e con tre cuori ancora da creatura. Yamiga man on board. Il mare urlava cupo quella sera, e il legno dell'incognita straniera cercava aiuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà? Chi sarà? Ma... nelle notti scure quando piange il cuore, mare, sei di un amore, soffocasti in gola l'ultima speranza, l'ultima parola. La barca torna sola. Roll. Stiamo provando. Perfetto. Perfetto. Abbiamo provato abbastanza. Abbiamo provato. Questa prova sì, è riuscita. Potremmo continuare con. Sì, abbiamo questa splendida notizia. Altre notizie, esatto, dal mondo dello spazio. Dal mondo degli ambienti ostili in cui amano rinchiudersi i miliardari. Esatto. E in preparazione ai viaggi su Marte, diciamo che. Sì, la prima simulazione realistica di missione marziana che sta organizzando la NASA, che ha stampato in 3D più o meno... Chissà che bello con tutti i bordi di stampa, tutti storti. Sì, l'avranno limata dopo. L'avranno limata dopo. Cioè, un ambiente di 1700 piedi, non so. Sono 150 metri quadri. 150 metri quadri di finto Marte dove rinchiudere. Quindi un appartamento. Dove rinchiudere. Un ammarteamento. Dove rinchiudere quattro volontari. Esatto, che si... Sì, che saranno 300 giorni, sì, dovranno... No, dai, forse... Beh, però con una serie di imprevisti organizzati a loro insaputa. Esatto, tipo quindi, gli dicono equipaggiamento... che gli sono morti i genitori, cose così. Cioè... Mentre dormono gli slacciano sì, le scarpe. Gli slacciano le scarpe, solo acqua fredda per una settimana. No, più che altro... Questo, come tutte le cose riguardo lo spazio, è anche interessante pensare perché uno dovrebbe pianificare una simulazione del genere. Cioè c'è veramente la convinzione che potrebbe risultare efficace, che tra qualche anno potremmo veramente finire su Marte, o è così, per gioco, per la sport? La risposta è no. Grazie. Però tanto no. La NASA ha soldi da spendere. Esatto. Quindi 378, quindi più di un anno. Sì, sì, sì, un anno e mezzo, un anno e qualche mese, 378 giorni, sì, sono un anno e qualche mese. Un anno e un anno, 13 mesi. Non so, la NASA sta spendendo un sacco di soldi, sta regalando un sacco di soldi ad Elon Musk, in realtà non li sta spendendo. E quindi magari ci crede davvero su questa cosa che andremo su Marte prima o poi. E non so, e diciamolo, non servirà a niente andare su Marte, perché... No, infatti l'idea è che un sacco di gente è su Marte, che andremo in 7 miliardi su Marte, esatto, tutti insieme, se non a generare tecnologia che magari verrà usata in ambiti militari o che cosa, come già sì, un sacco di Elon Muscate hanno dimostrato, che probabilmente infatti non sarà così, cioè se non andremo davvero, non è una prospettiva realistica, ma soprattutto è una di quelle prospettive in cui non si c'è questo senso di noi andremo su Marte, che in un noi che non esiste, cioè esatto, saremo su. E quindi niente, vabbè, buona fortuna a questi, sì, esatto, audaci volontari. E non lo so, vogliamo mettere la musica marziana, hai qualcosa in mente? Messaggio, cioè in questi giorni, quando era ieri, era la giornata della lotta contro la droga, qualcosa del genere. C'è stata questa... Noi siamo contro la droga. Questa scena, sì. Siamo per la guerra alla droga. Fai girare. La guerra, la droga è poca. Fai girare. Costa troppo. Esatto. E niente, e mandiamo adesso un messaggio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal Presidente del Partito Dipendente, eccetera. Attenzione, aspetta. Le droghe? Tutte le droghe? Solo le droghe? Droghe? Le droghe! Fanno bravi, fatelo girare le emozioni vere. O male. Solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni vere. Le droghe? Tutte le droghe? Solo. Are listening to? Listening to? Are listening to? Le droghe? Tutte le droghe? Solo le droghe? Droghe? Le droghe! Fanno bravi, fatelo girare! Le emozioni vere, è male. Solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni vere. Hai visto Mancini? Che cosa ha fatto? Ha fatto tra le droghe. Dai, facciamo un video anche noi! Dai! Le droghe! Tutte le droghe! Bravi, fatelo girare! Tutte le droghe, droghe, ma tutte le droghe, uscire, solo le droghe, droghe, se ne può uscire. Vivete le emozioni, le droghe, quelle vere. Dipartimento per le politiche antidroga del droga, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Droghe oggi, ma anche ieri. Le droghe sempre. Domani. Pensa che saranno quelle di oggi. Droghe di oggi per il nostro domani odierno? Sì, diciamo che non cambiano spesso le droghe, sono sempre un po' quelle. Sono sempre quelle. Sono sempre un po' quelle. E sono tutte uguali. E in un certo senso non ci sono più le droghe di una volta. Non ci sono più. Non ci sono più. No, e sono... droghe, cavalli e motori. Ma come si conclude questa frase di droghe, cavalli e motori? Sono gioie e dolori, penso, non so. Ok. E, no. Dunque, tutte le droghe sono uguali, questo è il messaggio. Cioè, da un certo punto di vista, sì, nel senso che la definizione di droga è così lasca. Lo spinello di eroina vuoi? Lo spinotto di eroina. Lo spinotto di eroina. Sì, questa cosa è sempre un pochino strana, nel senso che il concetto di droga non è un concetto medico, non è un concetto, è un concetto neanche farmacologico, cioè chi si preoccupa di farmaci o altro non usa il termine droghe per riferirsi anche alle droghe che tratta, che spesso sono utilizzate come farmaci, come per esempio la morfina. Scusa, ma usa il termine sostanze sorprendenti? Usa cioè molte volte quelle che sono droghe fuori dall'ambito medico, nell'ambito medico sono farmaci. cioè, o com'è la morfina. La morfina è un sedativo che viene usato assolutamente in ambito in ambito medico, soprattutto negli ospedali. E però non è trattata come una droga da chi maneggia e sa cosa fa la morfina. Perché il concetto di droga è un concetto un po' sociale, nel senso che anche l'idea della droga, qual è il punto fondante che identifica qualcosa come droga? E se cerchi quel punto lì, ti accorgi che quel punto non esiste. Non c'è. Se vuoi prendere in considerazione il fatto che una droga è una sostanza psicoattiva, allora la nostra vita all'improvviso si riempie di droghe. Come la caffeina diventa immediatamente una droga, la teina diventa una droga, qualsiasi farmaco diventa una droga presso a poco, ogni forma di sedativo, tabacco. E che dio è delle drogherie? Le drogherie prima vendevano quello. Ma noi siamo contro, no, il governo ha fatto un chiaro messaggio contro tutte le drogherie. Si vede, non lo so. Niente più noce moscata. La noce moscata è una droga? La noce moscata è psicoattiva, sì. È psicoattiva? Però per modi di trattamento, devi modi di assunzione particolari. Se la digerisci non è psicoattiva. Se la inietti è psicoattiva, ma è una di quelle cose che sono lo psicoattivo che è meglio se non ne fai uso, perché non è lo psicoattivo gradevole. Okay. È lo psicoattivo deliriogeno di quando ti avvelenano i rospi. Perciò il messaggio governativo che abbiamo sentito era contro le droghe estetiche, cioè quelle gradevoli. Il messaggio governativo no, perché l'alcol è una, cioè, di nuovo, se il nocciolo è la psicoattività, allora l'alcol è una droga. Se il nocciolo è la dipendenza, che generalmente è quello che fa veramente paura della droga, il fatto che tu, quando ti droghi, perdi il tuo amato libero arbitrio, la tua capacità di indipendenza che è tanto cara all'immaginario che abbiamo noi degli individui, e diventi questa sorta di zombie che non fa altro che drogarsi e prende dentro nelle porte. E questo concetto stesso è un concetto sociale, cioè il concetto di dipendenza è stato dimostrato da il creatore del Rat Park. Non so se avete mai sentito parlare del Rat Park, è un esperimento molto famoso. Rat Park, il parco dei topi. Uh-huh. E questo ricercatore, Bruce Alexander, mi sembra si chiami, negli anni 80, che erano anni di grande parlare di droghe, no? Perché si era aperto il commercio di cocaina verso gli Stati Uniti. C'era ancora in Europa c'era ancora il boom dell'eroina, la guerra alle droghe portata avanti da Reagan, forse prima, però in quegli anni lì, insomma, tutta la guerra anche al crack, che compariva come niente nei quartieri poveri, per mano di spacciatori, che poi si è scoperto essere al soldo del governo americano. E questo ricercatore, mentre c'erano un sacco di ricerche assurde che venivano fatte su questa sostanza, in cui per esempio si legavano le scimmie a una specie di sedia elettrica e si mostrava come una scimmia legata a una sedia elettrica a un certo punto iniziasse a non smettere più di fare uso di sedativi. Sì, infatti. Questo ricercatore disse: vabbè, ma queste non sono delle circostanze di normale socialità dell'animale, quindi proviamo a replicare un contesto sociale realistico per un animale, vediamo se continua questa cosa del, perché ovviamente vuol dire che le scimmie non fanno socialità legate a delle sedie? No, le scimmie non si, le scimmie è strano, le scimmie in natura non si siedono in un posto che gli dà la scossa quando... Ma veramente degli esperimenti assurdi. Questo Rat Park, l'idea era che dei topi venivano messi prima in un ambiente di laboratorio normale, dove venivano fatti esperimenti come prima, e poi invece degli esperimenti in cui venivano messi in questo parco per topi, dove c'era un'intera comunità di topi, dove avevano i giochi, avevano la socialità, e a entrambi veniva data l'opportunità di fare uso di eroina. E quello che hanno scoperto è che i topi facevano uso di eroina solo quando erano nell'ambiente di laboratorio. Perché? Perché non era, l'idea non era che era l'eroina che gli sovrascriveva il cervello e li rendeva schiavi. Era semplicemente che in una situazione di grosso stress l'organismo preferiva accedere a un sedativo in maniera ossessiva piuttosto che sopportare quella grande situazione di stress. Quando lo stress veniva meno, i topi non facevano uso di eroina. I topi nel Rat Park non facevano uso di eroina. i topi che venivano spostati dall'ambiente di laboratorio a Rat Park, indipendentemente da quanto uso di eroina facessero in precedenza, smettevano di fare uso di eroina. E quindi questo ricercatore ha fatto, poi è una cosa che ovviamente come in tutti gli ambiti di ricerca scientifica non l'ha portata avanti una sola persona ma tante persone, ha iniziato a vedersi, a formarsi una teoria della dipendenza come un fenomeno sociale. Ed è effettivamente così, nel senso che questo ricercatore poi è abbastanza pazzo, lui stesso ha provato a fare uso di eroina per capire, ha detto io non capisco perché la gente faccia uso di eroina, ci ho provato io per vedere se fosse così piacevole e mi faceva abbastanza schifo, cioè non era particolarmente gradevole. Però nel momento in cui c'è un forte stress, generalmente dovuto alla mancanza di un ambiente sociale o a una mancanza di prospettive, anche solo alla noia, effettivamente si sviluppa la dipendenza. Ed è effettivamente questo il consenso della comunità: la dipendenza non è una cosa intrinseca alle sostanze. E quindi la droga cos'è? Perché se non è lo psicoattivo che butta dentro un po' tutto, e non è la dipendenza che non è una cosa legata solo alla sostanza, ma anche molto legata all'ambiente di chi la consuma. Cosa vuol dire droga? Droga vuol dire cosa è accettato e cosa no su una base di preconcetti morali. Quindi il caffè e l'alcol sono l'alcol è accettato perché sono millenni che l'umanità ne fa uso. Il tabacco è accettato perché quando il tabacco è stato scoperto, ovviamente c'è stata costruita sopra un'intera nazione, così come il tè. Cioè il commercio della Gran Bretagna e degli Stati Uniti nel 1600 abbondava di tabacco e di tè. Tant'è che venivano fatti anche degli esperimenti sulle persone, degli esperimenti medici come quelli che facevano nel 1600. Cioè venivano dei prigionieri e gli dicevano tò, mangia tabacco per una settimana e basta. O tò, mangia tè per una settimana e basta. E la gente moriva ovviamente, perché se mangi solo stimolanti senza mai bere senza mai mangiare altro, stai male. E va così. I cannabinoidi quando sono diventati una droga? Quando sono diventati simbolo del movimento pacifista degli anni del 68. L'LSD quando è diventata una droga? Nello stesso contesto. Mentre invece, per esempio, i funghi che sono stati scoperti molto più tardi di altre droghe, perché erano stati gelosamente custoditi da alcune popolazioni indigene del Mesoamerica. Perché prima parlare di funghi li portava a essere uccisi, li portava a essere puniti in quanto portatori di falsi dei davanti ai cattolici. E quindi essere contro tutte le droghe va bene, è una presa di posizione, ma è una presa di posizione che esiste solo nella nostra testa, non esiste nel mondo medico, non esiste nel mondo farmacologico, non esiste nel mondo psicologico e esiste per noi. Buonasera, prima ci stavamo parlando di AI e perciò abbiamo un po' continuato a parlare di AI. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio Xank, e col quale volevamo parlare di dell'AI Act, della legge. L'abbiamo citato prima senza più o meno dire nulla, se non l'Unione Europea ha fatto una legge sull'intelligenza artificiale. Ciao a tutti, bene, io parlo un po' così a, diciamo, a braccio della, di questa normativa, questo che ha prodotto l'Europa per quanto riguarda le AI. Diciamo che io ho dato un po' uno sguardo a queste norme. Di primo impatto direi che comunque è ragionevole, è buono, perché comunque si individua per la prima volta con un'azione legislativa dei potenziali rischi di una tecnologia che adesso sta abbastanza avanzando. Cioè, c'è avuto, in questi ultimi tempi c'è stata un'esplosione nell'utilizzo, quindi in qualche modo, come vari aspetti che come succede di norma quando le cose sono abbastanza rare o poco conosciute o poco utilizzate, non c'è un grosso, procedono diciamo senza norma. Dopo un po' si decide di fare una norma. Quindi qual è stato il punto? Ha individuato dei potenziali rischi, dei pericoli, e su questo infatti ha scritto una legislazione, hanno pensato a una legislazione individuata su rischi, dando 3 livelli di categorie di potenziali rischi. Ad esempio, un alto rischio quando un'AI va a intaccare direttamente sulle persone, mettendole in pericolo, oppure dandogli il controllo di sistemi di arma, o potenzialmente questo, quando si perde il controllo di queste tecnologie, potrebbe essere pericoloso. Oppure ha individuato un aspetto non secondario. Perdonami, che cos'è il controllo di arma? Controllo di arma sarebbero usare la tecnologia delle AI, dell'intelligenza artificiale, per controllare automaticamente dei sistemi, delle armi, sistemi difensivi, offensivi, appunto, guidati, non so, potrebbero essere tecnologia di missili o droni armati o altre cose di questo tipo, e comunque potenzialmente contengono delle armi da fuoco. In linea generale penso si possa sintetizzare così. E niente, un altro aspetto che è stato individuato, secondo me critico, è l'uso delle AI, individuato come rischio alto, l'uso delle AI per categorizzare i dati biometrici delle persone, e quindi per tenere sotto controllo tramite telecamere attraverso dati biometrici, identificare e classificare, oppure usare poi queste tecnologie come oggetto discriminatorio. Ad esempio, prima si parlava di droghe, eventualmente un'AI che analizza così per il droghe o per razzo, per quant'altro, creare una forma di discriminazione della persona. E quindi tutti questi possibili usi sono stati individuati come alti, e quindi almeno sulla carta proibiti nel suolo europeo. E poi via via si scende con un rischio medio, dove c'è impatto inferiore, e un rischio basso, fino a non considerare nessun tipo, per le AI generiche, nessun tipo di rischio. Una domanda che sì. Tra l'altro in questo momento qui in studio siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone, e perciò la domanda è allargata a chiunque abbia voglia di rispondere. Mi stavo domandando, ma è possibile che un paese decida di non limitare lo sviluppo, l'utilizzo di una nuova tecnologia, e che però gli restanti paesi invece continuino a farlo? Cioè, per esempio, la legislazione negli Stati Uniti com'è messa in questo riguardo? È completamente liberale? Allora, di preciso, io rispondo adesso intanto io, poi vediamo se qualcuno mi segue. Di preciso negli Stati Uniti non lo so. Non so rispondere su questo. Penso che non ci siano limitazioni di fatto legislativamente parlando, anzi loro penso da questo punto di vista. Certo, in generale la risposta è, secondo me, no, perché comunque anche su un territorio creare un vincolo significa forse a volte chiudersi nelle possibilità di utilizzi di una tecnologia, ma comunque lasciata all'aperto, anche perché poi internet di per sé non ha una limitazione geografica, non è una tecnologia, è ammesso che comunque queste tecnologie vengono fruite attraverso la rete, ma non solo. Per quindi è un po' una cosa torna conto, però comunque non risolve molto di base il problema. Di base io penso comunque come aver creato una prima indicazione di potenziali rischi su un uso della tecnologia, secondo me questo comunque è importante. Poi sicuramente la fattibilità, lì si gioca molto la questione sul campo, su quello che può essere nell'utilizzo, quello poi che avviene realmente nell'utilizzo di queste tecnologie. Perciò effettivamente è la prima volta che viene fatta una legislazione, perciò che viene fatto un tentativo di individuare, limitare, anche di individuare i possibili danni causati da questa tecnologia in particolare, e dunque è anche un'ammissione del fatto che possa causare dei danni, perché se non ricordo male, fino a settimana scorsa, diciamo il ritornello era diverso, è arrivata questa bellissima nuova tecnologia con la quale si possono fare tante nuove cose. È la prima nota diciamo non completamente ottimista, e c'è arrivata sotto forma di com'è che si chiama? Un atto legislativo dell'Unione Europea. Beh, comunque c'è stato un piccolo precedente in Italia, fu un caso, secondo me, a mio avviso, visto poi gli sviluppi futuri, un po' imbarazzanti, quando il garante della privacy individuò un pericolo non ben precisato di un solo tipo di tecnologia e decise di bloccare l'accesso di, in particolare, la ChatGPT in Italia per un breve periodo. Quindi il problema, però, anche lì fu un po' irrisa la cosa, perché comunque bloccare un sito internet oggi non ha nessun significato, perché bloccarlo a livello di DNS, ovvero riconoscimento del nome, anche perché poi ci sono tanti modi per girarli, VPN, proxy, assolutamente aggirabile, era un punto fermo. È durato, è durato circa un mese, il tempo perché ci sono riuniti, ci hanno dato... la cosa strana è che improvvisamente così è stato individuato in questa tecnologia, solo puntuale, secondo me senza nessun motivo specifico, se non che non fosse una novità, un pericolo imminente, per cui creare il blocco. Ma questa è una situazione in cui non c'era un reale politico. Per adesso, ancora, anche per le AI, secondo me il problema è ancora generico, forse grossi pericoli potrebbero arrivare in futuro in potenza, però per adesso quel particolare caso non c'era, quindi è stata un po' un'azione estrema. Io ho visto anche delle interviste a questa persona, ora mi sfugge il nome, che era il garante, che lui comunque anche in passato aveva probabilmente dietro un retroterra anche culturale, in cui pensava che c'era dei potenziali pericoli, quindi non era del tutto negativo l'atto. Solo il problema qual è stato? Poi la soluzione dopo un mese mettere una pezza è stato la solito consenso informato sulla privacy sotto il sito, perché a suo dire avrebbero usato i dati su questo sito per riaddestrare la rete, non avevano comunicato la cosa agli utenti. Seconda cosa, è accedibile tranquillamente a chi ha una minore età, è risolto con un banner. Come sappiamo, mettere un banner dove autochiede alla persona non serve a niente, serve solo, è una tutela più che altro legislativa, forse è un segno, però non, per lo più non cambia nello stato dei fatti l'utilizzo della tecnologia, quindi è stata un po' un'occasione mancata. Invece lì, secondo me, forse ci voleva di individuare, come poi ha fatto l'Europa, ci vuole tempo per trovare anche le soluzioni, non è facile. Non sono del tutto contrario, andremo a vedere su quell'atto che ha fatto l'Europa, vedremo. Certo, se poi diventa una cosa che appunto sulla l'applicabilità reale è consistente o meno, anche perché credo che tanti problemi delle AI sono connessi, almeno allo stato attuale, sicuramente con il discorso della privacy, con l'uso dei dati, perché è una cosa non tanto detta. Le AI funzionano con i dati molto di più di tutti gli altri sistemi, quindi sono, divorano dati con ordine di grandezza e stanno in piedi grazie a questo. Quindi un problema anche non detto è questi dati da dove provengono, quale c'è stato, dove stanno presi, come vengono raccolti, come vengono utilizzati, chi li maneggia. Quindi è un aspetto critico che, ad esempio, questo provvedimento atto però forse è anche giusto, perché loro hanno demandato poi al GDPR, che si chiama Europeo per il controllo della privacy, il controllo dei dati. Però sappiamo bene che anche quello non funziona bene, funziona, è una, il famoso consenso informato. Do un dato e quindi leggo il banner, attenzione, quello che stai facendo potrebbe essere usato, se non vuoi non, però a parte il rifiuto non puoi far più di tanto, e anche rifiutando poi non hai la sicurezza che poi questi dati ugualmente non vengono usati, archiviati o... Tecnicamente lì l'Europa, anche sul legislamento su questo aspetto qui, ha detto teniamo i server in locali, ma poi ci sono state un sacco di cause fatte da un, anche da un avvocato austriaco, di cui non ricordo il nome, che ne ha mosse tante di cause. Un avvocato o un economista austriaco? Un economista. Un economista austriaco, ok, un praxeologo. Un praxeologo. E gli ha mosso un sacco di cause, allora appunto ai social network e tutto, ottenendo parziali risposte. Quindi comunque i dati sì, dovrebbero risiedere in Europa, in particolare in Irlanda, e però anche lì, dopo lì, poi vengono trasferiti ai Stati Uniti dicendo beh, comunque loro sono, garantiscono determinati standard di privacy, non è un paese che dove c'è, diciamo, una dittatura o altre cose di questo genere, quindi hanno una legislazione che può garantisce l'utente fino a un certo punto. O comunque, quindi secondo me il non detto delle AI, c'è anche questo aspetto qui dei dati, alcuni lo chiamano il grande furto, effettivamente secondo me non è così fuori luogo, abbastanza appropriato. Pensate che questo furto enorme di dati che si è perpetrato a danno ad uso con tutto il pianeta, perché per esempio quando hanno addestrato delle AI per le immagini hanno usufruito di milioni, non parlare quasi miliardi, di immagini che ci sono sul web di vario tipo, che sono stati dei dati su social network e altro. Quindi questo è un aspetto secondo me delicato delle AI. Secondo me una cosa interessante è come per un sacco di tempo, soprattutto quando si parlava di come le piattaforme, di come tu, quando per esempio posti un contenuto su una piattaforma come Facebook o come Instagram, ma anche come si potrebbe dire adesso una piattaforma molto più orientata alla condivisione di contenuti utili come GitHub, per un sacco di tempo sottolineare che i modi in cui sono regolamentate queste piattaforme di base ti toglieva l'appartenenza di quei dati è stata presa come una cosa irrilevante da tante persone che ti dicevano ma tanto loro cosa se ne fanno delle mie immagini. E questa, siamo arrivati a una risposta adesso con questa cosa delle AI, cioè cosa se ne fanno? Hanno trovato un utilizzo per quelle immagini, e adesso tante persone che prima questa prospettiva del fatto di essere effettivamente derubate dei propri contenuti e di non averne veramente possibilità di scelta riguardo i propri contenuti nel momento in cui lo postano sulla piattaforma, tante persone si stanno accorgendo, invece adesso protestano dicendo che stanno venendo derubate, ma non stanno venendo derubate più di quanto non lo fossero prima, solo che prima non riuscivano a vederla questa cosa, secondo me. Sì, no, è centrato il problema, sì, derubate sì, però in certo modo le persone, è difficile dire che una persona viene rubato quando materialmente cede qualcosa, perché il furto secondo me presuppone il fatto che uno non vuole restare proprietario di una cosa, invece loro l'hanno proprio ceduto, quindi c'è anche una sicuramente corresponsabilità delle persone, un po' l'hanno fatto inconsapevolmente, un po' altro, però è un po' un sistema di controllo che è diverso da quelli, mettiamo, tradizionali. Qui proprio le persone hanno ceduto parte delle loro cose, quindi sì, questo aspetto qui, questi dati in qualche modo sono, come diceva un curatore di culo sono sempre dati economici, cioè sono sempre, ogni dato è un qualcosa che ha un valore. Prima ero usato, sicuramente sono sempre stati usati per altri scopi, per categorizzare, per machine learning, oggi per AI più avanzate, quindi certo sono rimasti lì. Una cosa, ecco, che manca che sempre sui dati è che uno, dato il consenso, poi non lo può più ritirare. Perché i dati, soprattutto quando sono elettronici, visto un tantino di copiare è difficile, sono impossibile, una volta copiati, una volta trasmessi, ne perdi un po' la proprietà, perché non ti appartengono più. Questo magari, ecco, una legislazione possibile su questo aspetto, che uno cede i dati ma poi a un certo punto dico non voglio più che li utilizzi lì. Sarebbe interessante l'applicabilità anche qui, non so, è difficile pensarla, però per gli stati che promuovono le leggi, promuovono lo stato di diritto, appunto, non è mai impossibile, si può rifare tutto se c'è una volontà da parte delle grandi organizzazioni di uno stato, però purtroppo anche come l'Europa, per quello che fanno, sono sempre sottoposti a pressioni. Se te vai ai palazzi dell'Unione Europea, tutti nei dintorni ci sono una serie di palazzi dei grossi compagnie, tra cui informatico, stazionano lì. Perché sono lì? Perché stando lì promuovono il loro potere economico, fanno lobbying, fanno pressione a livelli che poi noi non conosciamo, quindi è difficile dirlo. Anche su questa ATT ancora nuovo si parla proprio appunto di una possibile ingerenza di ChatGPT, che ha cercato comunque di rendere la legislazione un po' più blanda su questo aspetto. Sono sempre un po' delle sfumature, come dice il diavolo, un po' sta nei dettagli. E così, prima ci è venuto in mente che è prossimo all'uscita, è imminente, incombe su di noi, non proprio su di noi per fortuna, però incombe Windows 12. E Windows 12 contiene l'AI. Qualcuno che ne sa più di me vorrà adesso parlarne. Allora, sono ancora tutte indiscrezioni, però già adesso in realtà Windows 11 mi comunicano persone che usano Windows, fortunatamente non io. Windows 11 ha eliminato gli assistenti che aveva precedentemente, che sì, erano basati su AI, ma su modelli non come quelli che vengono usati adesso, come GPT-4, eccetera. E il nuovo modello utilizza proprio suggerimenti di quella che adesso chiamiamo AI, quindi cose come GPT-4, ChatGPT, eccetera. E vogliono, quindi, come assistente in Windows 12 vogliono cominciare ad applicarlo ovunque. Per esempio, cosa interessante, le stanno mettendo già dentro la suite di Office. Prossimo, credo che sia già, forse già stato rilasciato per beta testing e cose del genere. Dentro la suite di Office c'è l'AI, quindi tu dici ChatGPT, tu dici scrivimi, cosa si scrive su Word? Dici fammi la dichiarazione delle tasse, scrivimi il curriculum, lavora per me, tutta la burocrazia che dovrei fare io fammela tu per favore, tanto sai chi sono. E andrà via via sempre più integrato nel sistema operativo, che insomma già ci volevamo stare lontani prima, quindi immagina adesso. Sì, ecco. Non è viva e viva, finalmente abbiamo l'intelligenza artificiale gratis. Non è gratis. Non è mai gratis. Mai gratis, non niente. Mai gratis. Tra l'altro, a proposito, prima è stato nominato GitHub, stiamo parlando di Copilot. Io, opinione un attimo personale, molto veloce su Copilot. Copilot è una merda. Copilot, io pensavo che almeno fosse gratis. Copilot costa 10 euro per individui e 19 euro al mese per business. Aspetta, questo è Copilot, e però diciamocelo meglio, che cos'è Copilot? Allora, Copilot è un programmino. Copilot esiste una piattaforma. Esiste una piattaforma dove viene contenuto molto del codice open source e non solo, praticamente mai scritto. E questa piattaforma è GitHub. Cioè, mai scritto vuol dire già scritto. Già scritto, già scritto. Scritto, già scritto. E quindi per anni si è usato GitHub, è stata una piattaforma comunque abbastanza apprezzata. Però con alcune persone che dicevano: beh, non sono molto d'accordo sul fatto che il mio codice open source sia su questa piattaforma closed source. Poi a un certo punto Microsoft ha detto: ma sai cosa? Ma perché non... ma dai, me la compro. E da lì GitHub, che già appunto aveva dei problemi, è andato via via sempre a peggiorare. In particolare Copilot è un modello di AI che è allenato, quindi che prende come ingresso tutto il codice su GitHub, quindi codice open source, codice quindi anche il mio scriptino del backup che ho messo su. Soprattutto il tuo scriptino. Ma l'ho scritto io quello. È il primo. Nella lista di Copilot è il primo che prendono in considerazione. E Copilot usa anche lo scriptino mio, usa il tuo e tutto quello che trova sopra, lì sì. Sopra e dichiara che è mio o no? O che se l'ha inventato lui? Se l'ha inventato lui, è una intelligenza artificiale, è intelligente lui, mica come te, è intelligente davvero. Ho capito, dunque è un furbacchione Copilot. Sì. E Copilot gli dici... E non si solleva un piccolissimo problema di diritto d'autore, di copyright? No, quelle cose tu gli dici, fammi questa funzione che non hai mai visto prima. E lui molto probabilmente l'ha vista prima. E se non l'ha mai vista prima, unisce un paio di cose che ha già visto prima. E non è esattamente corretto. Persone che sanno più di me di intelligenza artificiale e machine learning non sono magari troppo d'accordo, però... Perciò anche Copilot sono stati user-generated content che sì, adesso vengono risputati a pagamento agli stessi utenti che l'hanno messo dentro. Il problema di Copilot è che, al contrario per esempio delle immagini... È molto intelligente questa intelligenza. Al contrario delle immagini su Instagram, c'era proprio lì che sì, hanno... Che quando metti un'immagine su Instagram, tu automaticamente dai il copyright di quell'immagine a Instagram. Quando metti del codice su GitHub, tu puoi dargli una certa licenza. C'è stato... E quindi tu puoi dare la GPL3 al tuo codice, quindi per quanto sia su GitHub, quel codice è comunque open source e comunque distribuibile. Ma a Copilot... come posso dirlo in maniera non volgare? Copilot non gliene frega una mazza, diciamo. Copilot fa boom. Copilot si tappa le orecchie quando legge la licenza, però non se le tappa quando legge il tuo codice, e poi quando hai bisogno di codice te lo risputa, a meno che tu gli devi pagare 10 euro al mese. Però. Bene, che bello. Che bello, che bello. Opinione personale, poi, da persona che scrive codice abbastanza di frequente, alle volte anche troppo, non è così utile. È come la stessa questione di ChatGPT. Fai prima a cercare su un qualsiasi motore di ricerca, personalmente, e in più il motore di ricerca è difficile che ti dia la risposta errata, mentre con le AI è molto più ovvio. Tanto che adesso, prima si parlava di programmatore che ci metteva, impiegava del tempo a scrivere codice e un po' di tempo a debuggarlo. Adesso non ci mette niente, perché il codice te lo scrive l'AI, ma te lo scrive tutto sbagliato, quindi tutto il tuo tempo lo passi a debuggare, che è molto meno divertente, a debuggare e a maledire il prompter, che è quella nuova professione che è stata creata da questa nuova tecnologia. E gente che passa ore e ore a scrivere: fammi l'immagine, ma stavolta fammela un pochino come Picasso. Ah no, la cosa di Picasso non si può più fare, non si può più dire alle AI: fammela nello stile di. Però se riesci a farglielo dire, a farglielo, probabilmente lo puoi fare. Però in alcune AI hanno tolto questa cosa qui. Sì, sì. Era un'interruzione sì, casuale. Comunque questa intera trasmissione è stata generata da una I, stiamo leggendo uno script. Ma noi stessi non siamo qui veramente. Non siamo stati, siamo stati promptati da qualcuno nel futuro che si augurava di poter ascoltare una trasmissione che si sarebbe stata fatta una volta se l'avessimo fatta. Infatti voi non lo vedete, ma nessuno di noi ha una mano con cinque dita. E c'è una formula molto carina che viene usata in questi casi, che è che scelte abbiamo dunque? La biforcazione, da una parte c'è sposare pienamente queste nuove forme di tecnologia, diventare imprenditori di noi stessi, usare Copilot, avere Copilot in tasca, in una tasca, nell'altra il sole, e andare avanti verso il fulgido futuro. E dimmi. Riguardo a questo, io penso che se uno ha la pretesa che l'AI sostituisca il proprio lavoro, molto probabilmente ha un lavoro del cazzo, nel senso, cioè c'è anche un po' questa cosa forse, e dovrebbe rivalutare, speriamo, il proprio lavoro, più che stare lì a dire l'AI eccetera, perché che ne so, ci sono alcuni writer che scrivono la merda sui siti, che adesso con ChatGPT si sono trovati un sacco di lavoro fatto facilmente, per esempio. Ora questo è un esempio, e quindi scusami, la prima cosa che possiamo fare, dicevi, è appunto sposare in pieno questo nuovo modello che ci viene proposto, e l'altra probabilmente è l'antica casetta nel bosco e far perdere le tracce. Possiamo anche aspettare il cadavere sul bordo del fiume. Certo, qui potremmo metterci la teoria della rana bollita, le mezze stagioni. No, il problema più che altro è che non abbiamo viste tante in questi anni di innovazioni che cambieranno il mondo, che la Silicon Valley impazzisce, inizia a buttare via tutti i soldi che ha per queste cazzate che non si capisce bene che cosa dovrebbero, come dovrebbero funzionare. L'abbiamo visto con le criptovalute, che hanno trovato un mercato molto di nicchia all'inizio e poi si sono sviluppate semplicemente sulla base del nulla. L'abbiamo trovato con gli NFT, che dopo un anno che ci hanno buttato tanti di quei soldi che non si capisce dove sono usciti, poi sono tutti immediatamente scomparsi. Secondo me lo vedremo anche col metaverso, che è un'altra idea che non viene venduta come rivoluzionaria, ma probabilmente non avrà più successo del cinema con gli occhialini 3D. Il problema è che questo invece sembra qualcosa che potrebbe restare, sembra qualcosa che potrebbe trovare il suo posto nella società, e lo sta trovando il suo posto nella società. Quindi qualunque cosa si faccia bisogna tenere conto di questo fenomeno e magari anche impararne qualcosa per il futuro. E allora mettiamo un pezzettino musicale che si chiama La casetta nel bosco. Ciao. Ciao a tutti. You are listening to Radio Beethoven.